La storia e la memoria di Dino Pesole. È l'11 marzo del 1985, 30 anni fa, Mikhail Gorbaciov assume la guida del Partito Comunista Sovietico. Perestroika, ricostruzione, glasnost, trasparenza. Due concetti che sintetizzano l'esperimento politico di Gorbaciov, tanto popolare in Occidente in quegli anni, quanto temerario per il vecchio monolite sovietico, erede dell'era di Brezhnev, Andropov e Chernenko. Esperimento in parte fallito, ma che ha comunque consegnato alla storia l'immagine di Gorbaciov come di un grande innovatore. La perestroika designa in particolare l'ultimo periodo della storia dell'Unione Sovietica. È un processo di trasformazione che coinvolge tutti gli aspetti della vita sovietica, dall'economia alla politica, e che si afferma verso la metà del 1986. Mikhail Gorbaciov progetta sul piano politico la democratizzazione del paese attraverso l'introduzione di un pluralismo che, senza porre necessariamente in discussione il ruolo predominante del partito, crei una sfera politica pubblica basata sullo Stato di diritto, garante della libertà dei cittadini, in cui si possano dibattere le sorti del paese. Sul piano economico, Gorbaciov progetta un'economia socialista di mercato, mentre sul terreno della politica estera punta alla fine della guerra fredda e del bipolarismo, con la creazione di una casa europea in cui la Russia possa ritrovare il suo posto fra le nazioni occidentali. La prima fase della perestroika va dal 1986 al 1989. È una rivoluzione dall'alto. L'impulso alla trasformazione viene da Gorbaciov e dai riformatori riuniti attorno al segretario generale. Il punto di riferimento sembra essere il socialismo dal volto umano della Primavera di Praga. Il primo passo in questa direzione è la politica di liberalizzazione culturale che prende corpo nel corso del 1986. La parola chiave in questo periodo è appunto glasnost. È in questa prima fase della perestroika che l'Unione Sovietica cerca di fare i conti con lo stalinismo, che dopo il disgelo era stato condannato all'oblio. Sul fronte internazionale sono di rilievo gli incontri al vertice tra Gorbaciov e Reagan e con il suo successore George Bush, che scandiscono l'evoluzione dei rapporti tra le due superpotenze. L'offensiva diplomatica si estende al Vaticano e culmina nella storica visita al Vaticano del 1 dicembre 1989. A partire dal giugno del 1989, le fonti di legittimazione del potere passano dal partito alla sovranità popolare. Il processo si completa all'inizio del 1990 con l'elezione di Gorbaciov a presidente e con l'abolizione dell'articolo 6 della Costituzione che sanciva il monopolio del PCUS sul potere. Con la caduta del muro di Berlino, i radicali capitanati da Boris Yeltsin premono su Gorbaciov perché acceleri le riforme, sbarazzandosi dei conservatori. Un'ondata di proteste e manifestazioni attraversa il paese, lacerato dall'acuirsi delle tensioni nazionalistiche. È a questo punto che il processo riformatore sfugge completamente di mano a Gorbaciov. Nel luglio del 1990, i riformatori, con Yeltsin in testa, escono dal partito. E siamo al 19 agosto del 1981, quando il golpe ordito dai vertici conservatori dello Stato sovietico per ristabilire il potere centrale mette brutalmente fine alla perestroica. La sconfitta dei golpisti ad opera del nascente Stato russo e l'elezione di Yeltsin a presidente segna la fine del comunismo sovietico e dell'Unione Sovietica, che sarà disciolta a dicembre. Di tutto questo parliamo con il professore Andrea Graziosi, docente di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli. Buonasera professore, bentornato. Buonasera agli ascoltatori anche. Allora, ci sintetizzi un po' a 30 anni di distanza, quali sono poi alla fine i motivi che hanno condotto al fallimento di questo esperimento, di cui forse adesso si è persa un po' la memoria, ma che fu rilevante, soprattutto in quegli anni e per i nuovi assetti geopolitici che determinò? Ma sicuramente fu un evento rilevantissimo. I motivi del fallimento si possono capire abbastanza facilmente. Il motivo principale è lo stato in cui versava l'Unione Sovietica, sia a livello economico che sociale, un dato per tutti. Era l'unico paese del mondo dove l'aspettativa di vita, soprattutto dei maschi, calava dalla metà degli anni 60. Era un paese con un sistema economico obsoleto, con una tecnologia obsoleta, tranne che nel settore militare e spaziale, con dei costi insopportabili. La prova di questo stato terribile del sistema sovietico è data dalla compattezza dei riformatori. Contrariamente a quanto si dice, quasi l'intero gruppo dirigente sovietico era convinto delle necessità di queste riforme dall'alto, e gli stessi golpisti a cui avete fatto riferimento all'introduzione del 91 sono in realtà riformatori della prima ora, spaventati dagli effetti delle riforme. All'inizio contro le riforme non c'è nessuno. L'illusione è che in realtà l'illusione di tutti i riformatori che avevano i riformatori è che il sistema fosse un sistema sano, minato da corruzione, stagnazione, pratiche cattive di governo, e che con un regime di coraggiosa e onesta riforma sarebbe stato possibile rimetterlo in piedi. Il problema è che il sistema non era sano, e quando hanno iniziato a aggredire quelli che sembravano le ruggini, diciamo, che li coprivano, questa intelaiatura sana, si è scoperto che la ruggine aveva corroso tutto, cioè che non c'era questa struttura. Io direi che questa è stata la prima grande causa, che è legata alla, se vuole, all'ignoranza che aveva il gruppo dirigente riformista della realtà del proprio paese, che dipendeva a sua volta dal regime. Il regime era stato contrario a un'analisi realistica della situazione, aveva rinviato tutto, messo tutta la polvere, se volete, sotto il tappeto. E quindi i riformatori stessi non sapevano, per loro stessa ammissione, quali fosse la realtà che andavano a affrontare. L'altro grande, poi insomma, parliamo d'altro, ma l'altro grande motivo è quando man mano ci si rese conto della profondità del danno da riparare, della radicalità delle riforme, ci si rese conto anche che queste riforme sarebbero state molto impopolari. Ecco. E quindi sì, certo, si ebbe paura di farle. Certo. E si trascinò per 5 anni senza farle, ma comprensibilmente, perché erano davvero impopolari quelle necessarie. Ecco, una questione che credo possa interessare i nostri ascoltatori, che rispetto a quello che accadde 30 anni fa è cambiato tutto, il mondo è notevolmente cambiato nei suoi assetti e l'Europa al tempo stesso, ma oggi resta ancora qualcosa della perestroica, professor Graziosi? Ma resta il fatto che non c'è più l'Unione Sovietica, certo, sembra un lascito importante. Sì. Resta che sicuramente per 20 anni i russi e tutti, tranne che in Asia centrale, in alcuni altri posti, diciamo marginali, però in alcuni posti, in alcune repubbliche, la massa della popolazione ex sovietica ha goduto per 20 anni di diritti maggiori, sicuramente di un livello di benessere, soprattutto in Russia, con l'eccezione delle campagne. Sicuramente maggiore, basta il semplice dato: il sistema sovietico spendeva il 30%, circa 25% per gli armamenti, adesso la Russia, con uno degli stati che spende di più al mondo in percentuale sul reddito sugli armamenti, spende il 5-6, quindi si può capire l'enorme risparmio concesso dalla fine dell'Unione Sovietica e come questo si è ripercosso beneficamente sulla società. Sì. Quindi da questo punto di vista c'è un'eredità positiva, ci sono poi eredità negative sicuramente anche. Ecco, veniamo alla figura di Gorbaciov, che è una figura obiettivamente molto importante. Si ha un po' l'impressione che la figura di Gorbaciov, soprattutto in Europa, sia stata un po', come dire, dimenticata, rimossa. Lei ha la stessa impressione, professore? Rimosso, diciamo, tutto quel periodo ormai avvolto nella nebbia, diciamo, poi questo succede, poi verrà riscoperto come spesso succede. Gorbaciov è una figura, se vuole, drammatica, sicuramente dal punto di vista politico è un uomo che non ha ottenuto nessuno dei suoi obiettivi, oggettivamente uno sconfitto da questo punto di vista, però io credo che la storia sarà molto generosa con lui nel giudizio, perché bene o male, senza volerlo, perché lui voleva davvero riformare il sistema e produrre un'Unione Sovietica migliore con un nuovo nome, basata su nuovi principi, tutte intenzioni più o meno nobili al di là del realismo. Sicuramente però alla fine è riuscito a gestire, grazie anche a gruppi dirigenti repubblicani, una disgregazione di un sistema di fatto imperiale con molte poche vittime. Se lei pensa ai conflitti che ci sono oggi, si rende conto dell'enorme distanza che separa la morale e l'impegno, diciamo, per una soluzione ragionevole e ragionata dei conflitti della generazione di Gorbaciov e Yeltsin, che hanno, diciamo, dissolto un'eredità imperiale tranne che appunto in pochi casi come fra azeri e armeni nel Nagorno-Karabakh, con pochissime vittime, in una situazione di oggi dove i gruppi dirigenti al potere invece, diciamo, considerano la guerra uno strumento. Per Gorbaciov la repressione non era uno strumento, e questa è una cosa molto importante, secondo il giudizio futuro, no? Evitato, pensi alla Jugoslavia del 91, come si è svolto, diciamo, la dissoluzione Jugoslavia, 200-300 mila morti, la proietti su scala sovietica. Certo. Professore, un'ultimissima domanda. La caduta del muro di Berlino, la fine dell'Unione Sovietica, convenzionalmente la si attribuisce sotto il nome di fine della guerra fredda. Secondo lei è corretta questa periodizzazione? È corretta da un punto di vista europeo sicuramente. Se lei pensa su scala mondiale, sicuramente il periodo che si chiude allora, che comunque ha prodotto il mondo nuovo, è piuttosto quello della decolonizzazione. Certo. Gli stati che oggi sono importanti, la Cina, quella sempre di più sarà l'India probabilmente, sono tutti stati che negli anni della guerra fredda diventano indipendenti o comunque si rifanno, si riformano radicalmente. Da questo punto di vista il 91 è uno spartiacque sia per la caduta dell'Unione Sovietica sia per esempio per, se vuole, pochi anni prima per l'apertura della Cina da parte di Deng Xiaoping o per la fine del regime autarchico in India. Quindi è la fine di un'epoca storica davvero il 91. Da un certo punto è la fine anche dell'ultimo periodo in cui l'Europa, che con la guerra fredda era al centro del mondo, smette di essere al centro del mondo. Questa è un'altra delle grandi novità. Grazie professore, grazie tante per queste sue precisazioni e le auguriamo buon lavoro, buona grazie serata. Grazie anche a voi, arrivederci. Grazie ancora.